Ermengarda aiuta a pregare. 15 aprile. Mia nipote stava molto male quando qualcuno mi svegliò di notte. Ermengarda mi seguì. Io? Puoi aiutarmi a pregare? Lei? Sì. Sai se la bambina vivrà? Lei? No. Io? Allora prega che almeno possa ricevere il battesimo. Lei accenna di sì. 16 aprile. Ermengarda rimase continuamente in camera intorno a me. La bambina fu battezzata e quando morì lei ne fu tanto contenta. Come sia difficile in simili momenti, stare con la gente non è possibile dirlo. Ci vuole la massima forza di volontà, per non farsi notare. Con ciò non voglio assolutamente vantarmi. È un dono del Signore anche questo. 17 aprile. Mentre stavo preparando la bambina per la sepoltura, lei venne di nuovo e mi guardò, come una persona viva. Io? Quando sarai là dove è quest'anima? Lei non rispose, mi venne vicino e mi baciò, se si può dire così. Una pressione e un panno freddo sul volto. 19 aprile. Lei fu qui quasi tutta la notte. Ora posso vedere anche al buio, però cerco di accendere la luce prima. 21 aprile. L'ho vista 4 volte. 22 aprile. Rimase qui a lungo. Ha recitato con me il Padre Nostro. 23 aprile. Quasi tutta la notte accanto a me. Io, quando sei vissuta? Lei, passato. Io, dove sei sepolta? Lei, in Tet Nang. 24. Nota. Il vecchio castello in Tet Nang, oggi municipio, apparteneva ai conti Montfort. L. Ultimo Montfort in Tet Nang morì senza lasciare eredi nel 1780. Tet Nang sorge a nord-est del lago di Costanza. 25 aprile. Mi sembrò che ci fosse una seconda figura nella mia stanza. Lo chiesi poi a Ermengarda, senza ricevere risposta. 26 aprile. Lei sembra più contenta. Non c'è dubbio c'era ancora qualche cosa in camera. Forse era una figura maschile. 27 aprile. Ermengarda aveva un'espressione di felicità, e mi disse chiaramente, usque ad domum Dei. Fino alla casa di Dio, io, sei libera ora? Lei mi sorrise, mi venne incontro a braccia aperte e disparve. 29 aprile. La figura è stata a lungo da me. È un uomo dalla barba bionda, si vede bene solo la testa. È molto agitato, ma finora non molto da temere. 30 aprile. Mi svegliai con un senso di angoscia, ma non potei veder niente. Poi fui investita da un uragano. Pensai che fossero aperte porte e finestre, ma non era così. Finalmente vidi la figura correre di qua e di là. Quando incominciai a pregare si avvicinò al mio letto. 3 maggio. Dopo tanto tempo di nuovo gli 11. L'uomo visto a SCH. Forse è rimasto lì. 4 maggio. La musica di nuovo alla parete accanto al mio letto. Per trovarne l'origine, mi sono alzata e sono uscita fuori. I suoni mi risuonavano intorno. È bello ma inspiegabile. La sensazione di cui spesso ho scritto che mi sembra ravvicinanza di Dio ora è talmente grande, che a questo punto ne devo parlare. Diventa per me sempre più impossibile descriverla, ma è ora diversa da prima. Poiché io vedo che tutto diventa luminoso intorno a me, come stessi davanti a un fuoco aperto. Poi qualche cosa sembra imprigionare tutta la mia capacità di pensare. Viene del tutto eliminato ciò che è umano e la mia anima gusta l'indescrivibile. Quando devo nuovamente tornare fra le persone, è come svegliarsi da un bellissimo sogno, con la sola differenza che qualche cosa rimane dentro di me, che mi permette di vivere l'indescrivibile. È come se crescesse dentro di me qualche cosa. Prima questo sentire veniva per qualche minuto, poi tutto ritornava in me come prima. Ora invece rimane in me un contatto o un desiderio, non so io stessa come chiamarlo. Spesso mi penso, è mai possibile che io possa vivere una cosa così? Poi ridomando se forse è una immaginazione, ma dopo aver pensato di tutto, devo pur sempre riconoscere la realtà del fatto. Ritengo pure assolutamente escluso che qualcuno possa immaginarsi una cosa come questa. Ho visto di nuovo il cavaliere in chiesa davanti alla Santa Croce.